si porterà col fiume sino al mare, nella meta l'acqua troverà, il bacio del sole che la scalda, poi sarà. Nube, pioggia, fiume e mare, la sua storia di una vita senza età. Un'alba precede il suo mattino, nel tramonto un giorno se ne va. La vita continua il suo cammino e tornerà. In un eco di momenti e di ricordi, in un tempo che poi va. Sole, pioggia, mare e sentimenti sono realtà. Danno un senso ai tuoi momenti, alla vita che trascorre senza te. Restano nel cuore, tornano alla mente, sono con te, per fermarsi nel tuo tempo, quei ricordi negli istanti senza età. Nei momenti trascorsi per l'amore, un sospiro ed un battito darà, dolcissima emozione che riscalda e tornerà. Come pioggia di momenti di una storia in un tempo che poi va. Nei tuoi occhi vedo il mio mattino, sentire un'altra vita che verrà. In salita o in piano il mio cammino mi darà. Il ripetersi in un eco di momenti e di un amore senza età. Dammi la tua mano e i tuoi momenti, io sono qua. Nella vita sono solo i sentimenti a dare tempo a un'altra età. Torneranno ancora. Poi nella tua mente sono con te, per fermarsi nel tuo tempo e nei ricordi la tua vita senza te.